Il punto di Stefano Folli. Obama è a Roma soprattutto per incontrare il Papa, la cui popolarità è ormai un fenomeno universale e che ha dimostrato anche di sapersi muovere sulla scena internazionale, come si vide l'estate scorsa nella crisi in Siria. Tuttavia, avere il Presidente degli Stati Uniti nella capitale è un evento da cui ogni governo cerca di trarre vantaggio e Renzi non farà certo eccezione. Anche se Obama ha già fatto capire agli alleati europei di non gradire la riduzione delle spese per la difesa, compreso dunque l'acquisto degli F-35, quegli aerei di cui in Italia era stata promessa o adombrata la cancellazione. Ma non sarà così, avremo solo un prudente ridimensionamento del numero dei velivoli acquistati. Quello che colpisce in ogni caso è la tardiva riscoperta dell'Europa da parte dell'amministrazione americana. L'altro giorno Obama ha messo piede a Bruxelles, sede della Commissione europea, per la prima volta in 5 anni. A dispetto di 70 anni di storia, il vecchio continente era del tutto assente dai suoi pensieri. Con la crisi ucraina, all'improvviso, l'Europa è tornata di moda.